7 qualcosa. Qua sei quasi 9,25, sei fortissimo. Più 10 sempre, abbondante. Beh, non vi dispiace la radio? No, no, è bella. Va bene, questo è il più inferiore, diciamo, vai. Ah, io Claudio, non facci sentire la bestia. Ehi, anzi, ma te lo mando la foto, so che il casino è un bello, non so come mettere l'alimentatore. Cazzo, c'è un alimentatore grande quanto il Dark, grazie. Ehi, intendevo sentirmi, vedere nel senso di sentire. Calma, ci vuole calma a fare i collegamenti, non ci brucia nulla. Se cazzo, se brucio l'alimentatore di Massimiliano mi rompe il culo quello. Lineare non me ne fotte nulla, già ce ne sono lineari, mi vedi? Però l'alimentatore, questo è a 24 volt, è fatto fare apposta per lui, quindi non voglio fare casino. Dai, un attimino, già ci sentiamo dopo. Sto usando un baracchino ora, Claudio? Sì, sì, sto usando l'Elbex, il 4082 con l'MB più 5. Va bene, bella. Sì, sì, sì, già appetibile, dai, non le solite radio che abbiamo sempre, però ogni tanto uso anche questa, già va bene, watt sono 20, una ventina di watt, da, perché c'è la regolazione dei watt, capito? Sì, sì, sì, va bene, va bene. La radio è buona, no? Ti... Porra, sì, sì, va bene. Che sono una rocca, allora. Dai, fatemi fare questo collegamento e poi ci sentiamo, ok? Ok. Andabex. Marco, e allora? Solita routine. Che palle la vita. Che palle. Cosa? Che palle. Devi gioire quando vedi qualche persona e puoi dirle anche cosa vuoi di più. Almeno ci siamo visti, con i tempi che stanno correndo. Cosa vuoi di più? Un lucano. Lascia perdere, dai. Non bisogna lamentarsi. Vabbè, io già sono scontento di mio, comunque. Sono sempre mezzo contento e mezzo scontento. Eia, va bene. Ma io questo caffè, mamma mia. Oggi non ne vuole sapere la macchina di scaldare. Mi sa che faccio come ha detto Antonio, prendo quelle a capsule. Così era Antonio. Allora, è tutta cantonata cosa, prenderà modo mio, della fatta, quella scalda subito, lampeggia un po', poi fatto. Senti, la capsula, ringi e vai, quando è pieno il contenitore sotto, nei buchi, oppure poi c'è anche, sono di due versioni, c'è quella lì e c'è quella che a mettere, cioè a mettere capsule. Quella è una bomba, fregatene. Ce l'abbiamo avuto. Ce l'abbiamo avuto tre o quattro di quelle. Adesso è a casa di babbo, qua non l'ho messa ancora. Ma non sarò molto a comprarla. Io vabbè, ho bevuto anche quella capsule, tanto però ti devo dire la verità, io sono amante della mocca, forse anche per un po' il vabbè. Mio padre aveva il bar, aveva le classiche, le classica che ha del caffè, quella che tu metti il caffè dentro una cosa, no? La presi e poi. E mi ha portato una tipo quella del bar, però in versione più ridotta, no? Però il caffè che consumavo, nel farmi un caffè facevo quasi una caffettiera normale. Vabbè, no, già è buono con le macchinette lì, fidati. Io non sono bevitore di caffè, dico la verità, però esce bello cremoso, esce buono, se fidati. Ah, e qua abbiamo la mocca anche qua a casa, chi viene se lo beve così per il momento, però io prendo il più caro, quello che... Perché almeno quando uno viene si beve un buon caffè, non mi interessa, anche se lo pago 2 euro non mi interessa, però quando uno viene no che si beve un caffè buono. Sì, sì, vabbè, anche a me piace il caffè, però voglio dire, io prendo sempre la vasta, quella rossa, la vasta suerte, non so come si chiama. Comunque, lo so, la vedo e la conosco, se mi dici come si chiama non me ne ricordo. E ti dire la verità che l'ho usata sia con una mucca che con la macchinetta così a pressione. Non trovo cambiamento, giustamente come dici tu con la macchinetta esce più cremoso, più. Però la quantità di consumo che fa la macchinetta, la mucca non lo fa. Vabbè. Lo so. Però noi prendiamo il Borbone, prendiamo qualità oro, è più caro, però cavolo, mi hanno detto tutti che è un'altra storia, è buono per la macchinetta, quello, la moto mio, le capsule della moto mia. Sì, beh. Marco, tu cosa ne pensi? A me piacerebbe una capsule, perché io uso il caffè in polvere, però con la macchina c'ho tanti anni e un po' comincia a dare meno pressione, a scaldare più lentamente. Mi pare che ce l'ho dai tempi che Conforama si chiamava ancora Mercatone, non so se mi spiego. Mi ricordo. Poi per la mocca, purtroppo noi abbiamo quella mocca di Mauris, perché le bialiti sono tutte sfasciate, che hanno i forellini troppo larghi, e quindi il vapore, l'acqua quando bolle, non ha un minimo di pressione, no, quando passa dal caffè alla vaschetta di raccolta. Invece le bialetti hanno i fori molto più sottili, quindi un minimo di pressione lo prende il vapore e l'acqua. E il caffè è più corposo, invece hanno queste con i fori larghi, sembra caffè all'americana, è una schifezza. Se lo beve mamma, a me non piace. Ho capito. Vabbè. Ognuno comunque è sempre la solita storia, gusti e colori non si discutono, quindi. Oh, ho avuto persino la macchinetta per farlo il caffè all'americana, il vero caffè all'americana, ogni schifo. A parte che ci vuole il caffè adatto, non puoi prendere i caffè normali, devi pigliare un caffè proprio apposta per fare il caffè americano. Credo che, non lo so, ha qualche miscela particolare per cui lo arricchisce, ma fatto col caffè normale, per quanto buono sia, sembra a tè, è quasi trasparente come il tè, una boccaria. Sciocatura di medie. Ehi, o peggio, di culo. Va bene, a farci il bidet, il caffè americano. Bah, per carità, acqua sporca. Ma tu hai visto, in film, telefilm, quanto se ne bevono? Cioè, c'hanno quei bicchieri enormi di come si chiama, quella cosa americana? Cioè, tazzoni pieni, bicchieroni pieni, saranno da 300 millilitri, se non 400. E ne bevono uno, due, tre, quattro. E allora credo che poi muoiono di infarto in America, tra obesità e caffè a furia dura. Sì, va bene, ma il caffè ne berranno anche tanto, ma non è come quello concentrato come quello che abbiamo noi, sarà molto molto leggero, quindi magari non so neanche a cosa paragonarlo, acqua sporca. Te l'ho detto, ha ragione Antonio, va bene per sciacquarci i piedi o peggio. Beh, per carità, è un casotto, vabbè, comunque, dai, com'è andata oggi la giornata? Comunque non ha messo acqua oggi, se non sbaglio, vero? Allora, qua, ultimamente ho mandato, vedo la pioggerellina, stanotte ha piovuto qua, poco ma ha piovuto. Ma ti dirò che non so se ha piovuto o se la umidità, io vivendo in campagna molte volte noto queste cose qua, che molte volte scende più umidità che più gelellina, per dire, quindi sembra che abbia piovuto, però ne passo più umidità a me. Io ho passato la notte in bianco, qua un po' ha fatto, sì certo non era presa forte, più gelellina era, però l'ha fatta. Che dire, stiamo dicendo, aspetta, caffè, cosa volevo dire, no, non mi ricordo. Ah, io Claudio, sai che vuoi inserire due banane nelle prese, aiuto. Insomma, inserirle due è faticoso, penso che sia una cosa non tanto gradevole. No, a parte gli scherzi, quel lineare dovrebbe avere i morsetti, cioè il lato lineare ha i morsetti. E poi vabbè, l'alimentatore non so cosa ci mette lui, se banane oppure lo stringe con la vita, no? Boh, non lo so come. davvero. Eia. Andiamo dove andiamo, chiesa. Davvero. Ah, ok. E Bettino. Allora, cercate meglio le cose. Senti, sono qua, sono al 25, come faccio a cercare? Domani io, allora, domani rientro, vai, domani pomeriggio, là, domani sera. E per lunedì mattina te le cerco. Va bene. Però non so potenti come le vuoi tu, sono quella di degli alimentatori di computer. Oh, mi sentite? Bello. Guarda il segnale, a vedere come. Sì, davanti al 3, cra. Davanti al 3. Sì, no, da te ho migliorato qualcosa o sono sempre lo stesso? Santiago Nuovo, radio Super 5. No, tu sei sul più del più 30. La modulazione è buona, Tino, sempre uguale. Sì, però ma hai attaccato qualche cosa? 6920, 921. Prima quant'ero? Ahia, non ce l'ho adatto, adesso te lo sto dicendo perché è il rumore di ventola. È il rumore di ventola grossa, cioè sto attaccando, ho attaccato l'altro. Ah, ahia, mamma di dolci, ecco che è successo qua. Adesso ho aumentato di una tacchetta. E la radio com'è? Buona sempre? Sempre. Sto andando con quello grande, però la scala siamo al massimo. Oh Luca, da te ha migliorato qualcosa? Da me hai 9,25 modulati. Buono. L'RM Italy a 24 sto usando. Perché non ci avevo alimentatore a 24, capito? Lo stavo usando sempre a 12, ma raddoppia la frequenza, raddoppia i watt, cazzo. Oh Luca! Tra lo 0 e il 3, capito? Sei lì in mezzo. Oh, buono, grande segnale. Cazzo, mi arrivi i 7, vabbè, ultimamente di 9, cazzo, vedi un po', sei davanti, tra il più e il 3. Ehi, ma da poco fa, da quando mi sentivi prima, da adesso non ha migliorato niente, non hai visto nessun miglioramento? Due Santiago in più, caso, ma forse lì sul più. Da te Marco? Due Santiago in più, prima c'avevi, quanto era, 20 watt, eri 6, adesso sei 8 attenuato. Ti posso dare il controllo attenuato perché sei già incollato, già la prima a fondo scala. Va bene. La radio rimane sempre bella, la ventola, purtroppo questo c'è la ventola grossa, quindi se si sente la ventola è perché sta lavorando. Ma Giamanetta non dovrebbe dare di più di due Santiago? E da te, attaccato così come sia, attenuato, dove vuoi andare? Anzi, aspetta che lo abbasso, così è un pochino più basso. Tino, da te? Scusa la crack, stavo inserendo un codice. Allora, vediamo un pochino, perché c'è un bel di picchi, capito? Non lo posso aumentare molto, c'ho 10 watt d'ingresso, non posso fare di più perché non c'ho wattimetro, c'ho scala 200 solo. Allora, ce l'hai presente la tacchetta 920, ne accendi un LED. Col 50? Sì, e controlli credo con questo. Ok, guarda se si accende anche l'altra adesso, Tino. Guarda se si è accesa anche l'altra, che gli ho dato un'altra marcia. Ma non posso andare di più, sono in quarta, Marco. Non posso portarlo in sesta marcia, perché non c'ho wattmetro. C'ho già la T230 che sta superando i 200, capito? Se no mi rompe l'ago. Tu togli il wattmetro. Cioè, non usare il wattmetro e vedi quanto sale. Con l'antenna diretta al lineare. Ascolta Claudio, allora, prima i 9,20 con picchi di una tacchetta, poi hai attaccato un altro, sei rimasto stabile con la tacchetta, capito? Mi tiene guaria. Secondo te è buono come segnale, ne hai altri segnali così, solo quelli vicino? Già ne ho, però secondo me arriva meglio con l'altro, col tuo. Col mio? Ehi cazzo, col mio è un B300, questo è questa è un'idea mille. Ma non lo posso tirare perché non c'ho vattimetro, Marco, non lo posso mettere diretto. Non lo posso mettere diretto. Come faccio a metterlo diretto? C'ho tutti i passaggi delle antenne sulla T230. Ah, passaggi obbligati. No, perché dicevo, se... Vabbè, non lo puoi fare, perché sennò io, se il wattmetro era limitato, basta toglierlo e metterlo. Però no, vabbè, c'hai un sistema diverso tu. Sì, avrei messo direttamente l'antenna, perché guarda che due marce sono bemmi, due marce in più. Secondo me salivi di un altro Santiago. Che idea, Fondoscala. Attacca tu e prova con Marco, dai, attacca. Ma io c'ho 3 watt solo. No, attacca con Marco, attacca. Antonio, parlami sopra con Marco. No, non c'è storia, Claudio, lo cancelli. Cioè, se io attenuo a bombolo, scompare. E tu non attenuare, lascia parlare a lui senza attenuatore. Parla, Antonio, attacca, parla. Ma se non parla... È andato a cercare il segnale. Via. Comunque, vabbè, cioè io ti dovrei sentire il tuo segnale con 5 watt. Io non t'ho mai sentito con 5 watt, per sapere quanto arrivi liscio, nudo e crudo e, come dico io, scappellato. Per capire quanto il Santiago aumenta rispetto a un baracchino normale, tipo 5 watt. Sicuramente qua, quando arrivi 8, senti il Santiago in più di un quarta marcia. Allora, 5 watt. Dai, parla lungo. Aspetta Antonio un attimino, Allora, qui sono liscio 5 watt. AT230, 5 watt. Picchi positivi, quindi 4 watt e 5 watt modulati, ok? Il cacchio. Santiago 3 attenuato. E quindi 4, 5, 6, 7, 8. Nostra signora. Così sono agganciato. Ok, così è agganciato. Va bene? Sì, modulati 8, quindi 3 con 5 watt. Caspita, allora c'è la differenza, sì. Sai cos'è? Che io non ti sento quasi mai con 4-5 watt, se sempre 10-20 magari. Allora c'è la differenza, sì. Pino, quanto cambia da te? Allora, staccato arriva 9-20 con un picco di un LED positivo. Quando è attaccato e quel LED si accende e non va in positivo, non rimane fisso. No, aspettino però, aspetta, perché chiaramente la mia antenna vede la tua. Allora, così io sono liscio, 5 watt. Sto ricontrollando, AT230, 5 watt. Dobbiamo capire quanto aumenta di punti S, capito? Così con 5 watt quanto ti sto arrivando? Bene, 9-10. Da 9-10 a 9-25, cazzo, c'è parecchio, Appunto, vabbè, io ti ho detto un segnale e come tu hai fatto il primo passaggio, se poi eri attaccato a me... Facciamo una brava qua! Adesso mi hai detto che 5 watt e sei 9-10. Da 9-10 fai a 9-20 una pacchetta in più, da 9-20, quasi 9-25, Ok. Va bene, dai, era giusto per capire. Attenzione che però non ce l'ho. Sono in quarta marcia, anzi in terza marcia. Non posso salire di più perché in terza marcia praticamente sono a 200 watt di portante multa e quando modulo va a sbattere l'ago, quindi sicuramente va già sui 300 watt. Ok, quindi non posso salire di più. Adesso mi organizzo domani. Adesso non c'è il tempo per fare questa cosa, stacco la T230 e metto l'altro wattimetro che in pratica c'ha la scala 1 kW. Voglio vedere in sesta marcia se quanti watt dà, ma comunque così in terza marcia siamo già a 300 watt sicuramente, se non li passa pure. Quindi Antonio, com'è la situazione? A fondo scala sì, qua è a fondo scala sì. Ok, quindi non riesci a passare da Marco, vero? Non lo so. Parlate assieme, io. Cazzo, a me lo basta. È triste quando uno è così, è triste. Antonio 6 e mezzo, attenuato, il Claudio 8, quindi mi scompare Antonio. Non ne ho di più, no, non ne ho di più, purtroppo c'è molta differenza. No, però cioè, aspetta, scusa, riprendi Luca. Di radio passi tu, parla tra lo stesso segnale qua. Con chi, Lu? Con Antonio. Cioè, Antonio viene quello vicino. E riesco a passare di radio? Sì, sì, parlate, prova. 2, 3, prova, prova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, cambio. No, no, no, sali anche di più di segnale, Cattu. Adesso l'ho visto, lui è sul più, tu vai praticamente davanti al 3. E lo passi bene, si sente sotto lui, ma passi bene bene di radio. È una bella bestiolina il sottolineare. Adesso dica Massimiliano se me lo fa fare anche a me a 24 volte, perché ti, questo amplificatore, l'LA 1000 6V, è praticamente a 12 e a 24, a 12 volte dà una potenza, a 24 ne dà un'altra, capito? Sì, sì, lo sapevo, me lo stavo per prendere, poi invece ci ho ripensato, ho detto ma che cacchio me lo fa fare, tanto per l'attività che c'è. Ce l'ho anche in lista d'attesa, figurati. No, vabbè, ma io questo ce l'ho perché l'uso in HF, lo sai, questo è 0,30, quindi per me è ottimo. Però adesso che Massimiliano mi ha spiegato questa cosa, mi compro un alimentatore a 24 volts, infatti metto qua, ti presto un alimentatore mio, tanto io non lo sto usando, perché ne ho due. Lo provi, se vedi che l'amplificatore rende come deve rendere, ma non ci sono dubbi, te lo ordini e te lo usi a 24 volts, perché lo devi usare a 12, non ci compreso. Cioè, se invece di darne 550 di watt in AM, te ne dà 700, 800, non è meglio? Certo, certo, va bene. Devi sfruttare il più possibile dalla... Io, per dire, ho ancora un paio di marce dall'altro, ma non le metto perché va in saturazione, quindi preferisco andare a più basso. Va dai. Ciao Antonio, ciao Claudio, Tino, Marco, Gianni, insomma a tutti, dai, io sto uscendo, a domani, ciao ciao. Ciao Luca, guardate a vedere come arrivo adesso. Ciao Luca, ciao. Tu, esci adesso perché da lunedì chiudono tutti alle 18, tutti i bar alle 18, ristoranti, pizzerie, tutti alle 18. E adesso non fotti, non interessa. Ti figurati a me, me la posso buttare a casa la pizza, la nonna però. Guardate a vedere come arriva adesso. Già arrivi bene Antonio, già arrivi bene, dai, già scherreggia anche il tuo, però questo te lo dia già di più. Ciao Luca. Vabbè, non è altro, ma saturo sono. E un pochino sì, al limite. Ciao Lucariere, un abbraccio, a presto, ciao. KK, dai. Allora Marco, sei convinto adesso? Posso rimettere tutto a posto o lo lascio stare così? No, no, Antonio, non c'è storia, Antonio. Oh, comunque ho fatto un giro di canali, Anche su, dall'1 al 40, una mondezza di QRM fa, lo sai. Tutti i canali, fa un rumoraccio brutto. Già lo dico, guarda, io c'ho, ti sto dicendo, allora, quando schiaccio la portante la T230 si ferma a 200, quando parlo va tutto in avanti, va a picchiare, e quindi saranno già in scala minimo minimo 300-350 watt, così in terza marcia, quindi immaginati tu in sesta, già va bene, dai, già va bene, sono contento, dentro la scatola, se vuoi ti mando la foto, mi Marco, dentro la scatola, l'ho tolto poco fa perché non... lo sta bruciando. Anto, triste Venezia, non c'è niente da fare, sempre la gatta, vai ti. Anto, volevo parlare con 747. Non ne ho altri. Non ne ho altri. Se ne avrei avuto altri era caduto di pezzo. Metti le due in parallelo. Anto, anche se ne hai un altro, grande quanto è questo. Puoi solo darmi fastidio con Marco o con qualcuno che è vicino, ma non c'è storia, dai. No, non facciamo questi discorsi che già li abbiamo fatti altre volte, non serve a niente rifarli. Fare le prove con i vicini di casa, mi affaccio alla finestra e lo saluto e le faccio vedere anche il culo. Il bello è quando si fanno prove a lunga distanza, allora è un'altra cosa. Vabbè. Ok, altra domanda Tino o Marco, la ventola sentite, ma comunque la mia voce praticamente la copre, non posso fare altro. Va bene, già non dà fastidio. Sì, esatto, è appena di fondo, ma fastidio non ne dà. In fondo, anche a via stazionaria a proposito. Sugar, manco si muove l'ago dello Smith. Ma stai anche accordando o sei diretto? Diretto ce l'ho, non ho bisogno di accordare, io ce l'ho T230 solo come rosmetro, wattimetro e commutatore d'antenna, come accordatore a zero, non lo uso, capito? Infatti adesso ho messo FWD, vediamo, riflessa, non ce n'è, diretta, non ce n'è, figura di un 350 watt. Che Gianni dice, quando attacco lineare mi aumenta le stazionarie, ma a me a chi non aumenta, non ho compreso, se è cablato bene non deve aumentare niente, non so se sto sbagliando io, va bene dai, comunque è così, dai, ragazzi io vado a mangiare, lascio tutto acceso, se si arriva non vi mangiate tutto il sushi, che voglio sushi tenuti. Ciao a tutti, buon proseguo, ci sentiamo dopo, ok? Pure io ti sentivo nel canale, ho fatto un giro. È già lo grido, cioè sto andando con 350 watt intorno, non sto andando con 60 watt. Beh, io ne avevo la metà di te, ne avevo, ma meno della metà di te. Adesso puoi fare l'uomo dell'armonica 2.0. Ma tu, se vuoi fare la prova, sì, dall'altro giorno che vuoi puntigliare, vuoi fare la prova, mi metto alla pari di te, forza. Allora, vediamo. Questa è in terza marcia, così, così, vediamo. Allora, quanti vatti c'hai tu? Quanti vatti dà quel giocattolo? Ma non ho voglia di riattaccarlo, che la lascia perdere. Dimmi anche perché c'è la posizione. Purtroppo se l'avessi avuta io avremmo giocato, ma no, non posso giocare. Tu hai la posizione, io gioco dentro un fosso in occhi. No, dentro un fosso sono io, Antonio, non c'è storia. Non iniziamo i discorsi vecchi perché non ne voglio sentire. Con me non c'è storia con nessuno. Uno per la posizione e uno per le apparecchiature che ho. Quindi non facciamo commenti, non facciamo storie. Lasciatemi tranquillo e sereno. Io sto solo facendo le prove, non sto provocando nessuno e non voglio fare il forte con nessuno. Però con me non c'è storia, con nessuno. Cioè toglietelo dalla testa tu e se lo tolgono dalla testa a tutti. Se io devo fare quello che voglio fare, lo so fare. Però va bene così. Ok, Anto, quindi non c'è storia. È inutile che andiamo a dire la posizione è quello. Io ho apparecchiature che tanti non hanno e quindi le apparecchiature più la posizione fa 10, gli altri rimangono a 5, sempre con tutto rispetto e per carità. Vabbè, cosa vuoi che ti dica? Purtroppo non me lo posso permettere di comprare apparecchiature per il momento, la dico la verità. Però per come sono va abbastanza bene, dai. Non me lo posso permettere. Io sono d'accordo con te e solidale con te, Anto. Questi discorsi io però li ho già fatti negli anni passati e non li voglio rifare più. Siccome sei dall'altra volta con Marco, ti basso. Tu puoi passare quando vuoi con Marco perché sei un tiro di schioppo. Però io ti dimostro che se voglio non passi neanche con quello che hai nel tuo palazzo. Questo è ben chiaro. Capito? Già staticamente approvato che se io voglio non parli neanche con quello del tuo palazzo, non solo con Marco, capito? Perché torniamo al discorso che le mie apparecchiature sono quelle, le tue sono altre, punto. Chiudiamola qua perché io non devo fare gare con nessuno, sto solo facendo delle prove. Guarda, io sono alla pari tua adesso, sono con 60 watt di 60 watt. Tino, calato il segnale? Stavo il PC. Guarda, 60 watt, praticamente in prima marcia, anzi, sì, in prima marcia, con 3 watt di pilotaggio. Sì, fai da 9.10 a 9.20 modulato, quindi un buon segnale. Ma io ne ho 10, ne ho. Vabbè, 10, no, non so perché quella volta poi 10 fatte, vediamo. Allora, qua, torna a carico fittizio, sto andando, ecco, così c'ho 10 volte. Vabbè, ma non è, lo so che magari vai più forte tu perché sei in alto, io sono più in basso. E poi anche perché è qualcosa di diverso, è normale. Dai, non ti preoccupare. No, ma quando lo faccio io è per ridere, per scherzare così, ma lo so alla fine che c'è qualcosa di diverso. Lo so, lo faccio giusto per fare una risatina così, ma niente di particolare. E fa, ma non è che voglio sfidare a te, ci mancherebbe. No, ma lasciamo perdere, stiamo, che lo stiamo parlando, io ti ho espresso il mio parere, io ti ho espresso il mio parere e te l'ho detto, tanto se riesci a procurare l'alimentatore 24 ti faccio sentire una cosa, te l'ho fatta sentire, vedi, ti ho mandato anche la foto, no? Hai visto, te l'ho messo sopra il 440, il lineare, ed è grande quanto il 140, non è che si allontana da lì, con la ventola sopra. Ventola sua di serie, non è che ve la giubbotta io, Va bene, dai, siamo a bisticcio qua con la famiglia, devo andare a cenare, sentiamo dopo, se vediamo se qualcuno da fuori a fare qualche prova. Ciao Tino, Marco, Antonio e chiunque fosse qua su 10, ciao. Ciao Fra, ciao, buonasera. Ciao Fra, buonasera. Ciao, buona susciatta. Sussucchio. Buona susciatta. Buon sushi, quindi susciatta. E Anto, la posizione è fondamentale, la posizione è fondamentale, quella che ha lui, è quella migliore di tutti. Purtroppo io non è che poi non ho neanche una mano qua. Cioè, bisogna considerare tante cose, uno si fa la pari, si fa con le stesse apparecchiature e cose, allora possiamo giocare, ma io con un 747 e con l'apparecchiatura che ho io non devo andare, sono abbastanza tanto forte per come sono messo. Ho fatto passi da gigante, ti ricordi che prima non uscivo così forte. Sì, ma intanto noi siamo in città, non c'è più nessuno, nemmeno nei paesi non c'è quasi più nessuno. Tino, riprendi. Sì, comunque sto cercando volontari per raccogliere le olive, quindi chi vuole fare qualcosa domani me lo dica, insomma, da fare c'è. Mandrone mi hai trovato, forse Antonio. Insomma, Marco, io ti devo le cose da fare, tu proprio te ne freghi, Troppa fatica, nemmeno pagato, nemmeno pagato. Uioia. Che dire? No, c'era una cosa che volevo dire. Avrei voluto, vedi, per dare controlli corretti però, perché io dello smitter del 3009 mi fido meno di zero, avrei voluto lo smitter del 140, vedi, per dare controlli corretti. Però a me del 140 piaceva solo lo smitter, il resto l'ho dato volentieri. Sì, già, insomma, 140, 440, sono tutti smitter affidabili. Ragazzi, vi devo mollare, che devo preparare per cercare di fare qualche cosa forte, qualcosa da mettere sotto i denti, quindi mi devo allontanare, magari se coincide più tardi. Ehi Attino, ehi Anto, anch'io vado, a parte devo cambiare l'acqua alle olive perché sono al limite, se no mi devo mettere il panno per stare al baracchino. Mi attacco alla TV adesso, l'ora è giusta, sono le 9 in punto. Dai signori, buona serata, buon tutto. Ci sentiamo quando capita. Vai Anto. Buonanotte, Marco, dai. Ci risentiamo il prossimo volta a cassettino. Eppure io vado a nanna, dai, che sono piuttosto stanchino, sono. Sono qui tracco. Ciao, buonanotte a tutti. Nanna no, però magari più tardi, adesso nanna no, si mangia e poi per digerire magari temporeggia un po' tra PC e radio e poi vediamo, d'accordo, ciao più tardi.